In città c'è l'inaugurazione di una mostra oggi di Agnese De Donato, anni 70 io c'ero, questo è il titolo, alla Galleria De Crescenzo e Viesti in via Ferdinando di Savoia 2. Ne parliamo con la curatrice Greta Boldorini. Greta, benvenuta a Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Allora, per chi ci sta ascoltando, diamo alcuni riferimenti rispetto alla figura di Agnese Donato, scrittrice, giornalista, fotoreporter, femminista, insomma, dici un po' qual era la personalità di, sì, anche sociale, la sua rilevanza sociale di Agnese De Donato. Sì, allora, Agnese De Donato dalla fine degli anni 50 e per tutti gli anni 60 è stata innanzitutto una libraia e gallerista del Ferro di Cavallo, che era aperto in via Ripetta, quindi proprio al centro dell'attività artistica romana di quegli anni. Dalla fine degli anni 60 è diventata invece fotoreporter ed è stata la protagonista attiva anche del femminismo, è stata una delle fondatrici di Effe, la prima rivista femminista italiana, e quindi ha vissuto quella stagione assolutamente in prima linea e quindi ha fotografato le manifestazioni femministe e anche complessivamente tutti gli anni 70, e proprio queste foto abbiamo deciso di selezionarle e di esporle alla Galleria De Crescenzo e Viesti da oggi, dalle 18:30, e saranno in mostra fino al 30 giugno. Senti, come sono organizzate le foto? Allora, le foto sono divise in cinque sezioni, cioè le foto del femminismo a cui vi accennavo prima, quelle di piatti, quelle di artisti, il teatro d'avanguardia e quelle di danza. Le sezioni le abbiamo decise con Agnese stessa, che fino all'ultimo ha lavorato attivamente in prima persona a questa mostra, selezionando appunto gli scatti uno ad uno. Senti, rispetto alle tecniche fotografiche, ci sono differenze sostanziali tra i vari capitoli della mostra? No, diciamo che sostanzialmente le foto sono tutte stampe d'epoca realizzate da Agnese stessa, che aveva una camera oscura dove appunto stampava tutti i suoi scatti. Ti sento improvvisato. Ecco, adesso sei tornata, sì. Mi senti? Sì. Sì. Dicevo che in alcuni casi rari, per foto che ci sembravano particolarmente interessanti e che volevamo mettere in mostra, abbiamo fatto delle stampe, ma la maggior parte sono tutte stampe vintage degli anni 60, degli anni 70, fatte appunto da Agnese. Senti, nel campo artistico, tra cinema e letteratura, quali sono i personaggi che si trovano tra i ritratti? Allora, per esempio, c'è in mostra una foto molto bella di Nanni Moretti sul set di Acebombo. Ci sono poi delle foto molto importanti della mostra contemporanea, che è stata allestita nei sotterranei di Villa Borghese nel 1973. Ritratto di Elena Sbambo piuttosto che di Bellocchio, Claudia Cardinale, sempre uno sguardo a 360 gradi. Senti, esiste anche il catalogo della mostra? Sì, c'è un catalogo che accoglie degli scritti di diversi specialisti, diciamo, dei diversi ambiti. Appunto, allora Iamorri è una docente universitaria di Roma 3 che ha scritto sulle foto del femminismo. Italo Moscati, che ha scritto delle foto di teatro, Leonetta Bentivoglio su quelle di danza, io stessa appunto Greta Boldorini sulle foto di arte, e ci sono poi delle testimonianze sull'autrice di Grazia Francescato, che era una delle protagoniste insieme ad Agnese della rivista Effe. Allora, ripetiamo la mostra anni 70 io c'ero, dedicata al lavoro di Agnese De Donato, alla Galleria De Crescenzo e Viesti in via Ferdinando di Savoia 2, dal 25, giovedì 25 maggio, oggi credo intorno alle 18:30, se non sbaglio, l'inaugurazione, sì, fino al 30 giugno. Ci dai anche i riferimenti web per saperne di più? I riferimenti web, allora, c'è una pagina Facebook che si chiama proprio Agnese De Donato anni 70 io c'ero, dove stiamo raccogliendo anche tutta la rassegna stampa che è uscita in questo giorni, la pagina Facebook della Galleria De Crescenzo e Viesti, dove anche potete trovare tutte le informazioni sulla mostra. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci grazie. Presto. Grazie mille, grazie a voi. Ciao Greta, ciao.